as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Salve a tutti, siamo di nuovo qui ad Il Pane e le Rose, trasmissione degli operai metalmeccanici. Siamo sempre su Radio Città Fucico, ci potete trovare anche in podcast. Ricordo a tutti quelli che mi scrivono: ah, ma non riesco a sentire la trasmissione. Ricordo a tutti, continuo a dirlo ogni trasmissione, potete trovare tutte le puntate in podcast nella pagina Facebook Il Pane e le Rose. Oggi abbiamo con noi, in realtà non è qui presente, ma abbiamo intervistato Lello Signoriello, delegato della FIOM dell'Otis. Eravamo al direttivo regionale, lui vive a Modena, è un compagno di lunga data della FIOM, si occupa della manutenzione dell'Otis, fa parte di tutto il settore di lavoratori metalmeccanici che non lavorano sotto un capannone, come facciamo noi, ma si muovono. Il mondo della manutenzione è un mondo molto importante e grande in Italia e lui rappresenta i lavoratori della FIOM e dell'Otis che fanno manutenzione dei nostri ascensori. Lavoro importantissimo, grazie a loro possiamo andare, si spera, in sicurezza dentro gli ascensori. Guardate che se si stacca un ascensore il problema diventa molto molto molto grave, e succede, ce ne sono diversi che nel mondo ogni settimana partono e fanno dei metri in picchiata. Ecco, adesso sentiremo un pezzo bellissimo di Daniela Pesce, Laira, è un pezzo molto molto carino. Ringrazio chi mi consiglia la musica, la selezione musicale. Speriamo un giorno di averla in radio, che metterà anche della musica per tutti quanti voi. Poi sentiremo Lello Signoriello, ok? A dopo per le conclusioni. Oh, deixe agora co alimero, vora no fai te. Oh, deixe agora valimero. E dare fai te. Yeah. Allora, eccoci qui, siamo in compagnia di Lello Signorello, delegato della FIOM dell'Otis Reparto Manutenzione, multinazionale degli ascensori. Io ti conosco da tanti anni, mi ricordo la vertenza dell'Otis di Calderaro di Reno, ci siamo conosciuti allora. Siamo rincontrati qui all'attivo dei delegati di Emilia Romagna, tu vivi a Modena. E nel tuo intervento, insomma, ho scoperto tante cose che non conoscevo e ci tenevo a chiederti, insomma, maggiori informazioni per i nostri ascoltatori, se racconti quello che sta succedendo, dove lavori tu e quello che sta succedendo nel mondo degli ascensori in generale. Allora, io ho cercato di raccontare due aspetti. Uno sindacale, prettamente sindacale, che riguarda la vertenza sulla questione dell'assorbimento dei minimi contrattuali adoperato dall'azienda, su cui noi abbiamo aperto una vertenza e che ha avuto una forte adesione, perché non solo qui in Emilia Romagna, noi siamo suddivisi in aree di pertinenza, la nostra è un'azienda multinazionale presente su tutto il territorio nazionale e la nostra area di competenza come RSU va da Piacenza ad Ancona, quindi quello è il nostro, diciamo, c'è stata una fortissima adesione, ma anche nelle altre aree, diciamo, perché l'azienda, una multinazionale che fa mega profitti, confrontando i dati nel settore metalmeccanico, dove si è notato, grazie agli studi fatti, un aumento dei profitti enorme, non corrisposto in maniera uguale sulla redistribuzione del reddito, nella nostra è ancora in percentuale più alta della media nazionale, però ci hanno assorbito una quota di salario. E questo dovuto al fatto che nella negoziazione, diciamo, c'è un aspetto che vuole essere mortificato, cioè quella della mancata possibilità di assorbire i minimi contrattuali per le aziende, un aspetto su cui dovremmo discutere a lungo per renderlo più chiaro. Comunque, la cosa che io ho sottolineato è che l'adesione alla mobilitazione e agli scioperi è stata altissima e questo fa verificare che la gente è attenta alle questioni sindacali, è attenta, diciamo, soprattutto al problema, diciamo, dell'erosione del potere d'acquisto del proprio salario, che è un dato di fatto, per cui nelle mobilitazioni. Poi un altro aspetto che ho toccato è quello della sicurezza del comparto ascensoristico. Parlo, diciamo, per quello che è la mia competenza, rispetto, ho tantissimi anni, diciamo, di esperienza lavorativa in questo settore, gradualmente si è contratta la prestazione del controllo sugli ascensori, sono un mezzo di trasporto che utilizziamo tutti, il mercato italiano è il secondo più grande al mondo e questa questione è importantissima. Io ho imparato, perché sono da qualche anno che a Bologna, vengo da un'altra zona, che qui c'è un dipartimento dell'OSL, il Dipartimento Salute e Sicurezza, dove ci sono a lavorare due ingegneri che fanno i controlli, che è veramente, devo dire, grazie a loro ancora c'è un alto livello di attenzione. Però oggi anche i controlli di sicurezza sono diventati una merce. La certificazione, diciamo, la si può ottenere anche con tanti enti notificati, che poi non voglio fare una generalizzazione, ma moltissimi sono veramente, cioè, prendono i soldi, però non fanno dei controlli adeguati sulla sicurezza. E questo non mi spaventa dirlo, perché è così. Per cui io ho chiesto alla mia organizzazione sindacale di metterci un occhio su sta roba qui, perché oltre ad essere un problema relativo ai lavoratori e alle responsabilità, perché noi siamo dei tecnici abilitati e siamo responsabili della conduzione degli impianti che abbiamo in manutenzione, anche per una questione relativa alla sicurezza di tutti i cittadini. E quindi su questa questione qua, visto che gli ascensori sono una cosa che utilizziamo tutti, vorremmo, diciamo, ragionarci seriamente. Ecco. Poi la cosa si può chiaramente più approfondire, ma in linea generale i su quello su cui verteva il mio intervento sono stati questi due punti fondamentalmente. Oggi il tuo intervento è stato interrotto, no? Però eravamo tutti curiosi di capire, perché non c'era da tempo per fare un intervento lungo, eravamo tutti quanti curiosi di capire cosa volevi dire dopo questo intervento. Io, niente, era una cosa che volevo, cioè quest'estate... Durante le mie ferie sono andato a visitare le miniere del Sucis Eclesiente, no? Sì. E in quell'occasione la guida raccontava una cosa che io avevo letto anche in Amazzonia, no? Questi lavoratori iper sfruttati, perché già di per sé è un lavoro pericoloso, diciamo, fino a che sono state aperte, sì, è migliorato leggermente, ma immaginatevi il lavoro in miniera, no? All'inizio succedeva che queste miniere, per facilitare la presenza dei lavoratori, si costruivano tutto intorno dei villaggi con degli alloggi per le famiglie e degli spazi aziendali dove queste persone compravano quello che necessitava alla vita. Però poi alla fine, di fine mese, quando si faceva il dare all'avere, il lavoratore non riusciva a compensare con la propria fatica quello che l'azienda gli aveva dato come benefici, no? E diventava lo schiavo del lavoro. E qui noi stiamo andando verso questa, cioè nella contrattazione, cioè i premi variabili che ad ogni contrattazione si annullano e tu li devi rincorrere, non si sommano le nuove conquiste, le piattaforme aziendali dove ti mettono dei soldi che tu devi spendere dove dicono loro. Cioè, è il discorso che comunque si è poveri lavorando, ecco, questo era il mio concetto di lotta di classe, che purtroppo gli unici che la stanno sostenendo sono i padroni che l'hanno vinta la lotta di classe, perché loro continuano ad erodere i risparmi, i sacrifici e il salario dei dipendenti a beneficio di chi ha le azioni, ecco. Questo era quello con cui volevo arricchire il mio contributo, certo. Ma non il tempo, sai, il tempo anche perché, ti danno. No, ma anche perché oggi, se c'è De Palma in questo momento che sta finendo il suo intervento, sta parlando del contratto nazionale, di come dovremmo agire, quello che dovremmo fare, su quello che dovremmo realizzare. Oggi ha parlato di sciopero generale il segretario della CGIL dell'Emilia Romagna. Tu cosa ne pensi? Io credo che comunque le vertenze vanno costruite. Lo sciopero generale ha un senso se è legato ad una vertenza che tu devi costruire dal basso nei luoghi di lavoro e deve avere un percorso. Io sono ormai al fine della mia carriera professionale, ho tanti anni di militanza, ho avuto la fortuna di avere l'esperienza di conoscere un sindacato degli anni delle conquiste. E le vertenze si preparavano, non erano un momento occasionale di uno sciopero che è un appuntamento come il Natale, il Capodanno. Tu devi costruire una vertenza che deve avere una continuità con uno sciopero, soprattutto in questa fase storica, con un governo di destra, con un'opposizione che non esiste, con una sinistra che non rappresenta, chiamiamola sinistra, io non la reputo sinistra, comunque i lavoratori che non hanno una sponda politica, e le vertenze devono essere durature, forte, mobilitare, avere una grossa adesione da parte delle, quindi vanno costruite. Io penso questo, dopodiché è la storia sindacale che ce lo insegna. E negli anni in cui le conquiste sono state fatte, sono state di sacrifici, di lotte, e che vanno ripetute, vanno rifatte. La lotta di classe va ricostruita anche non considerandola un retaggio del Novecento, ma esiste, purtroppo esiste, le classi non sono più rappresentate, se non i padroni. Tu parlavi, hai detto il fatto che la lotta di classe ce l'hanno fatti i padroni, l'hanno vinta. Io penso che non dappertutto, perché in molti paesi in realtà i lavoratori hanno reagito, e anche duramente. Però oggi vediamo in Italia, oggi, mentre noi eravamo qui, l'assemblea dei delegati dell'Emilia Romagna, della FIOM, la Meloni era la prima assemblea di Confindustria che ha praticamente dichiarato da subito, dicendo: quando è che ci incontriamo? Noi l'abbiamo anche invitata, non noi, noi e te chiaramente non l'abbiamo mai invitata noi alla festa della CGIL, al congresso, e sono anni che chiediamo un incontro, tutti i sindacati chiedono un incontro per discutere della situazione drammatica che oggi ci hanno presentato qui, no? I metalmeccanici sono veramente in crisi. Cioè, non c'è solo la lotta di classe, c'è anche le lotte politiche che ci fanno contro di noi a questo punto. Ma guarda, la Meloni fa il suo mestiere, oltretutto oggi la politica è scaduta miseramente. Lei rappresenta il decadimento di una politica che è sempre stata serva dei padroni. È normale che abbia questo atteggiamento. Noi, le cose si conquistano, noi ce l'hanno insegnato i padri fondatori della nostra grande organizzazione sindacale, nessuno ti regala niente, soprattutto chi lavora e chi ha una bassa opportunità di rappresentazione se la deve conquistare. Quindi noi sponde politiche, soprattutto quando c'era solamente quando c'era un partito comunista forte e che rappresentava fino a un certo punto quelle che erano le esigenze del lavoratore, potevamo pensare a una sponda politica. Oggi non esiste una sponda politica per chi lavora, ma solamente i padroni sono rappresentati. Abbiamo visto la storia delle banche, gli extra profitti, gli enormi profitti che fanno appunto le aziende, come dicevo prima, i lavoratori che producono quei profitti non sono assolutamente qualcuno dice che si è poveri pur lavorando, però poi alla fine queste cose bisogna organizzarle. Secondo me è necessario riprendere una lotta costante, continua, e che riesce ad aggregare, ecco, che riesce a sfidare anche le delusioni dei lavoratori, perché come ho detto nel mio intervento, chi si candidava a rappresentare i lavoratori ha spalancato le porte a questa destra fascista che oggi sta al governo, proprio perché i maggiori attacchi al mondo del lavoro sono venuti da quella parte che era erede del grande glorioso della sinistra, che in qualche modo ha contribuito ai diritti e ha contribuito ad essere una sponda delle rivendicazioni sindacali. Tu hai parlato anche di autonomia differenziata, tu sei meridionale come me, un po' più giù di me, hai parlato di autonomia differenziata e hai spiegato una cosa interessante, no? Perché chiaramente hai detto, spiegalo qua ai nostri ascoltatori. Ma io quando sento parlare di questa storia dell'autonomia differenziata, ma non lo dico io, ci sono dei costituzionalisti, insomma io sono un operaio che diciamo ha fatto la propria esperienza culturale anche informandosi e non solo su quello che diciamo che è la vulgata comune, però ad esempio Pallante è uno di quelli che lo dice, ma non solo lui, insomma, il padre di questa deformità che viene parlata e viene definita appunto autonomia differenziata è la modifica del titolo quinto della Costituzione, una bellissima Costituzione venuta fuori dalla resistenza, dalla lotta di resistenza del sangue dei nostri nonni, dei nostri genitori, che però è stata mai applicata e adesso si sta smantellando nelle parti più fondamentali. Ricordiamo che la modifica l'ha fatta la sinistra in Italia. Sì, sì, sì, io proprio nel 2001, diciamo che... ma io ho difficoltà a dire la sinistra. Ah, sì, ok. Perché, la pseudo-sinistra, cioè, nel senso che per me si definiva la sinistra allora. Io sarò una persona di una certa età e quindi è legata ai valori. Per me sinistra è chi rappresenta dei valori. Se uno si dice di sinistra però va contro quelli che sono gli interessi della classe che dovrebbe rappresentare, non è sinistra, è un liberista. Al pari di... E infatti ho detto nel mio intervento, tanti non votano e tanti votano l'originale. Certo. Perché se devo votare liberista per liberista, quella è populista, voto quella. Ok, ti ringrazio Lello, sono sempre... bellissimo parlare con te e ci vedremo nelle lotte che noi le faremo sicuro. Grazie, saluti a tutti voi e ti ringrazio per avermi dato l'opportunità di dire quello che penso. Ciao compagno. We'll be right back. Avete ascoltato un altro pezzo magnifico oggi, grandissima musica qui ad Il Pane e le Rose, e Mad Free Orchestra, veramente un gruppo molto molto in gamba, Balcania, un pezzo che piace moltissimo. Alla fine del pezzo ho gridato olè, ci stava tutto. Allora, abbiamo ascoltato Lello Signoriello. Lui ci ha parlato della questione di Super Minimi, ne abbiamo affrontato un po' di puntate fa quando abbiamo parlato del contratto nazionale, degli aumenti che ci sono stati, di come i padroni cercano di annullare l'aumento contrattuale dando dei super minimi individuali non assorbibili, così come previsto dal contratto nazionale. Purtroppo questa è una sfida che ci portiamo dietro dal 2012, credo, e che in cui, cioè, spieghiamo per i non addetti ai lavori, cosa fa il padrone metalmeccanico, ma succede anche in altri settori. Lui ti dà una specie di anticipo del contratto nazionale, ti dice: ti do 100 euro di super minimo, questi super minimi sono assorbibili, significa che dopo tu, quando prenderai 100 euro di aumento contrattuale, viene assorbito, cioè non lo prendi fondamentalmente l'aumento contrattuale. In passato, quando i contratti metalmeccanici portavano 20 euro all'anno di aumento, chiaramente i lavoratori erano ben felici di accettare i super minimi individuali, sbagliando, chiaramente, teoricamente, però era chiaro che il lavoratore dice: beh, li assorbo in 5 anni questi aumenti. Adesso, fortunatamente, in questi ultimi anni, ultimi 2-3 anni, questo contratto, visto che c'era la clausola di salvaguardia, abbiamo spiegato in altre puntate, per chi volesse approfondire può andare a vedere le puntate sul contratto nazionale metalmeccanici che abbiamo fatto. Chiaramente adesso tutti quelli che avevano dei super minimi hanno visto non hanno avuto l'aumento contrattuale, perché è stato assorbito dal super minimo l'aumento contrattuale che c'è stato. Stiamo parlando di più di quasi 300 euro. E c'erano delle persone, nel mio caso, dell'azienda dove lavoro io, era una cosa che riguarda molto spesso gli impiegati. Nell'Otis della manutenzione abbiamo capito che ci sono tantissimi lavoratori che in questi anni sono andati avanti con i super minimi, soprattutto quando il contratto nazionale non portava salario. Ecco, poi lui ha parlato di tantissime cose importanti legate alla sicurezza degli ascensori. Ho fatto una battuta all'inizio, ma è una sezione importante, cioè se mancheranno sempre di più i tecnici come lui che vanno in giro a controllare, fare manutenzione degli ascensori, ci potremmo trovare una situazione veramente veramente critica. Gli ascensori sono una cosa molto delicata, soprattutto i controlli non vengono fatti. Lui spiegava benissimo il suo intervento. Da parte dell'ASL ci sono pochissimi addetti ai controlli degli ascensori, ci sono molte ditte di certificazione sulla sicurezza degli ascensori che non sono pubbliche, dunque sono private, vengono pagate per certificare che tutto è a posto, e anche lì un problema gigantesco. Insomma, c'è tanto da lavorare in quel settore, tanto da fare. Poi avete ascoltato Lello che ha parlato tantissimo anche della questione politica, della lotta di classe, di come dovremmo costruire degli scioperi. Insomma, io sono d'accordo con lui su quasi su tutto. E, ecco, io la chiudo qui, l'ho fatto anche troppo lunga, vi saluto a tutti e ci sentiamo per la prossima puntata. Ciao! Orgulloso de estar, entre el proletariado.